5, 4, 3, 2, 1, 0. Buongiornissimo, Radio Risacca. Very, very good morning, Radio Risacca. Oggi si impara la saggezza qui su Speak English, la rubrica che ci aiuta ad imparare l'inglese, dove si ascolta solo musica British. And for who speak English and want to learn real Italian popular culture. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Today way to say. Siamo rimasti con la scarpa e non ciabatta. Siamo rimasti con la scarpa e non ciabatta. We were left with a shoe and a slipper. We were left with a shoe and a slipper. Una situazione scomoda. Forse abbiamo usato troppo? A volte mettere i piedi in due scarpe non è l'atteggiamento migliore. Il rischio è quello di non ottenere nulla di buono, se non si è chiari e dirimenti. La saggezza popolare porta sempre buoni consigli.